Pronto? Ciao, è il 1994. Mi trovo all'università, facoltà di sociologia. Poco studio sui libri, molto nella saletta autogestita. Gli anziani parlano di una rivoluzione alle porte, l'avvento di un sistema di comunicazione che avrebbe stravolto la società, i rapporti di forza, il modo di lavorare, di relazionarsi. Viene dagli Stati Uniti. In Italia ancora pochi ne hanno accesso, per lo più nelle università, i laureandi. Ma cos'è esattamente? Non mi è per niente chiaro. Dicono una rete. Sì, ma in pratica? Dei testi in cui alcune parole sono blu e si possono cliccare per trovarsi su altri testi. Una rete di testi, dunque. Ma ancora, la portata rivoluzionaria mi sfugge. Voglio vederci chiaro. Parto per gli Stati Uniti, dove il proverbiale zio d'America m'aspetta da un anno per donarmi un po' di quell'opportunità che ha trovato in quella terra. Hai il collegamento ad internet? Sì, arrivo. Negli States conosco la rete. Vertigine. Immediato accesso ad una quantità enorme di informazioni. Passo le prime settimane a stampare di tutto, fino a saturazione cognitiva. Mi sono perso, aiuto! L'email e la chat mi consentono di trovarmi vicino ad esseri di cui spesso non conosco le fattezze, il timbro vocale o l'odore. Molto vicini, intimi. Allo stesso modo, il mio interlocutore non conosce me, così ho davanti la possibilità di ricominciare da capo, riscrivere la mia identità. Perso nella rete come nel ventre materno, pronto a nascere di nuovo. Il mio nuovo corpo è fatto di processori, circuiti stampati, cavi e periferiche. È grande quanto il mondo intero. Ma qualcosa ancora mi manca. In questo corpo non sono completamente a mio agio. Non ne ho il pieno controllo. Ho bisogno di confrontarmi con altri su cosa succede a questo corpo. Faccio i bagagli di ferraglia e conoscenza e torno in Italia. Mi hanno detto che al Forte c'è una BBS che dispaccia avvisi ai naviganti e pare che internet ancora lì non sia arrivata. Non faticherò a trovare lavoro. Sarà il 96. La BBS è il nodo di una rete, una internet in piccolo. Non ha testi con parole in blu, ma non era poi quella internet. Ha l'email, ha la chat. La mia dotazione corporea è un portatile. È un modem che riesce a trasferire 14.400 bit al secondo. Ci si codifica a malapena il testo di quel che ho letto fino ad ora. Sul portatile ho due sistemi operativi, uno libero e uno non. Il sistema operativo è l'insieme dei programmi che si occupano di gestire le tue interazioni con la macchina. I comandi impartiti al tuo corpo macchina vengono interpretati dal sistema operativo, da cui dipende l'effettivo destino di quel comando. Essere libero per un programma vuol dire essere ispezionabile e modificabile, adattabile alle esigenze di chi lo usa. Per fare un esempio, un programma non libero è quello che si trova sui lettori DVD, quei lettori che ti impediscono di mandare avanti veloce durante la pubblicità. Se il programma fosse libero, potresti modificare la versione sul tuo lettore DVD perché obbedisca a te, anziché ad altri. Per fare un altro esempio, un programma non libero è quello che si trova negli smartphone, quello che ti impedisce di usare il telefonino come se fosse un walkie-talkie, senza passare per il ponte del gestore telefonico. Un programma libero può essere legalmente copiato, ispezionato e modificato. Un programma non libero no. Può essere illegalmente copiato, ma è estremamente difficile ispezionarlo e modificarlo. Sul portatile ho i due sistemi perché alcune cose con il sistema libero non funzionano bene. Alcuni mettono in rete informazioni utilizzando dei formati segreti, per leggere i quali si può soltanto affidarsi a programmi che tengano il segreto per sé, senza condividerlo con l'utilizzatore. Cosicché se vuoi accedere alle informazioni devi comprare la licenza d'uso del software. Alcuni produttori di periferiche tengono segrete le specifiche per farle funzionare. Cosicché di nuovo bisogna affidarsi a scatole nere perché qualcosa funzioni. Mi collego da casa alla BBS, poi studio come far diventare il mio portatile una BBS, usando software libero sul sistema Unix. Tecnicamente la BBS non mi dà quel che cerco. Le informazioni che ci si trovano sono pochissime rispetto a quelle che si trovano su internet. È una pozzanghera in un oceano. L'unica differenza è la connotazione identitaria dei file che girano. Ma l'identità fa parte di quelle strutture destinate ad essere sconvolte dalla rivoluzione di internet. E questo si vive a tutti i livelli. Nel 97 tengo con Avana un corso di alfabetizzazione, cercando di spiegare cosa sia internet a quelli che, come me, non riuscivano a capirla. Poi vennero i gestori telefonici a tendere la mano agli esseri umani e a guidarli per mano nel fantastico mondo che i venditori di sogni avevano costruito per loro. Non sarebbe più stato così facile perdersi. Peccato. Pienone in internet. La quantità di traffico e confusione rendeva difficile la vita a chi si era fatto una mappa per orientarsi. Vendevano magliette in un incontro europeo di hacker con su scritto «The internet is full, go away». Avvisi ai naviganti. Servivano allora e servono ancora di più oggi, che i naviganti sono i nostri figli 24 ore al giorno sullo smartphone. Ma di avvisi è piena la rete, e trovare quelli buoni e capire la differenza è la cosa più difficile.